Yeah. Mi basta carta e penne, qua nessuno mi ferma. Ho così tante rime che riempiono di dispensa. Matto per il rap, mi presento senza fan. Ogni rima è come zucchero perché accendo un diavolo in me. Tu prova a imitarci, sono calci, fatti viaggi. Ficcati la lingua in culo così meglio puoi leccarci. State lesi, offesi stessi, più che easy, crazy, pesi. Fai città di rime, ne cagate uno ogni 9 mesi. Incazzato con il mondo nel mio profondo inconscio. Com'è profondo rosso la te, state la schiaccio. Vuoi la droga per sta roba, non c'è spada nella vena. Black Bamba, colpi di frusta in questa anatema. Tu più parli di me e più son contento. La tua bocca non cucita ma bloccata col cemento. La nostra aria è malaria, meglio che cambi aria. Musica morta, fresca fresca dalla camera mortuaria. Dedica per chi predica, colpi di metrica. La sua ragione inedita, la mia esistenza è solo rendita. Realtà, niente recita. Se rap è l'embrione di una meta, sai la rima e la sostetrica. Non sono un re, ma la black è la mia reggia. Fulmino idioti falsi che si riducono in scheggia. Io riempio la mia anima e reverbero echeggia. Il rap è linfa vitale, protetto da salda corteccia. Violenza innata e fiumi di slang che sgorga. Per ogni tipo altezzoso che penderà dalla mia forca. Colpi bassi che incassi, ma non ci smonti, siamo integri. Di fuoco inibiscono anche i signori degli inferi. Matto per sta merda, rap di tipo aristocratico. Figlio di papà rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Per il mio chiodo fisso sai qual è il perché. Ex osservo dell'hip hop, mi presento Enchanté. Morfetta, teolizzi, lo sai come funziona. Riconosco la mia gente, riconosco la mia zona. Tanti scazzi, ma si cazzi pronti a devastare. Mentre si va in scena in una scena che scompare gente. Calchiamo l'asfalto, ricalchiamo l'essenza. Prepotenza sulla scena e si sente la presenza. Vivo del mio rap senza il marchio Rockefeller, sai. Non mi si caga se non sfilo in passerella. Ricorda il nostro ruolo qui, non è marginale. È la nostra potenza, sta nel nostro potenziale. Il rap come cura contro ogni vana distrazione. Antistress, roba disumana per generazione. Qui tutti king, sangue blu, VIP, se rimo. Le vostre corone me le bevo un tavolino. Non ci ferma più nessuno quando si comincia. Adesso senti come spacca il suono dalla provincia. Passo dopo passo, passa il tempo. Un altro passo chiedo in pasto. Una passione, ciò che sento dentro. Vado verso il mio verso, verso versi su miei testi. Danno merda come insetti per apparire sugli insetti. Il problema della scena non si stana. Tutti con la brama a fare il filo alla fine. Filigrana, fame di fama, estate di incassi. E poi sul filo della lama. La situazione è triste. Entri nel business e parli di piste o di pistole nelle mischie. E poi finisce che si pensa che l'hip hop sia quello di 50 o di Eminem. Io metto più fuoco, il mio scopo non è mica fare muovere fighi sotto uno strogo, arrogo alcune lacune dove il dubbio rimane. Sono antistress, lettere disumane. Direttamente da Molfetta City. Non uccido, non incidi, morsi duri con incisivi. Nel peccato la prima pietra non la scaglio, solo l'ultima perché la tua nascita è uno sbaglio. Niente cuori, niente fiori, niente più che nasce cospa. Tutti benvenuti nell'apocalisse. Con le rime ti scarto, con le rime ti incarto. Se capisci puoi chiamarmi mastro. Non mi collimi, sono anticollisione. Sono inascoltabile nel processo di degradazione. Senti il calore nel tuo corpo, segui la tua meta. Sbagli strada, non capisci, non è il metatarso. Per strada vedo troppi gangster, copie di 50, uscite tutte quante dalla Lexmark. Non capisci qual è la situazione. Si è schiantato contro di me, un anatema, maledizione. Io modello rime come fossero di Creta. Se parli come mangi, oggi hai sbagliato dieta. Mi presento Nats, ma per voi resto l'anatema. Sono la scelta che si aliena dalla scena dove l'ignorante fa carriera. Facciami le guance, sei all'ultima cena. E sul menù il piatto forte, rima estrema. Frena, se ti do più merda che tu con Swan Cap. Voi restate carne morta per farci il mio kebab. E non pensare di trovare quattro cazzoni. Qua si incidono canzoni per chi ha buone ragioni. Dipingere e cantare come maledizione. Tentativo disperato di migliorare la situazione. Burattini colorati con paroloni ne va scoperta. Ma la merda zuccherata anche se è dolce è solo merda. Mettici più fiato fino al rischio di enfisema. L'hip hop non è mai morto, si manifesta in anatema. Parallelo ogni zano, parallelo equatoriale. Un nero pensare su sto meridiano, meridionale. Che sia normale, la stato mentale attuale. Consolato, sconsolato, con cristianità da scoprire. Comunicare, sto disaccordare, amatoriale. Ma professionalmente avete potere decisionale. Avere a che fare con anatema, dismi dai corrigere. Nella galleria d'arte, nella controparte senza morale. Esecrazione della voce alla cima. Constatazione della vostra falsa ultima pena. Se l'aderenza alla trama, mancanza di stima. Talmente stregato che sciaglia che mal di schiena. Sto giro ci si dimena sul tema accennato prima. Per questo miro l'ultimo faro del tuo patema. Inseramento di ere letterali da vetrina. Alias collaterali da maledizione della prima rima. Tutti champion, tutti king. King in commissione ma non king sul ring. Se va di moda tutti bling, tutti bravi col copione, tutti bravi nell'immaginaria situazione. E chi mi doveva dare l'esempio mi sta dando lo scempio, che poi davanti sanno dire solo help. Bella per il mixtape, una zio Felp. Ambiente di avvoltoi o solo tutti fratelli nello slang? Perché fa più schifo un testo serio di uno che parla di gang. Una siga, carta e penna, penso adesso che è tutto diverso. Ho iniziato da bambino quasi 7 anni fa, invece di vedere i cartoni in TV c'era Bim Bum Bam. Una prima cassetta, la prima scoperta, una salopetta enorme che adesso è troppo stretta. La voglia di fare, di creare, di stupire, ma ho trovato mare, pare c'era tutto da capire. Gente troppo diversa da chi prima frequentavo, ma la voglia è la stessa e mi medesimavo. Ma nessuno con me, tutti contro di me. Se un bambino non starmi vicino, sta cosa non fa per te. Che ci credeva che ci avessi tanta voglia, come se trovi un muro e non passi la cazzo di soglia. Pazzo per il rap, in brecca le prime armi, con la botta di chi ti guarda e dice prova a fermarmi. Dovrei immaginare tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho passato, un passato distratto. Ma adesso, adesso è tutto diverso, è tutto diverso, è tutto diverso. Prova a immaginare tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho passato, un passato distratto. Ma adesso, adesso è tutto diverso, è tutto diverso, è tutto diverso. Giro la prima pagina e chi se lo immagina che pratica inizia sta storia e ora esamina un'adolescenza passata tra carenza d'affetto e sicurezza e petto l'unica speranza. Ma la speranza qua è l'ultima a morire, e da tanti anni fa se senti qua ancora vive inizio a scrivere rime, a scolpire stile mune da una comitiva che mi paragonava a Fatume. Ma la prima ragazza frattante di una razza che apprezza quel che fai senza badare all'apparenza. Ma l'apparenza inganna, mi lascia in soffro di sogna, ma la voglia di scrivere mi dava la calma, una calma apparente. Io mal visto dalla gente, primi e vecchi, le felpe, gli amici, niente. Oh, trovo una radio, poi una crew, grazie di brutto. Anche se adesso con tanti scazzi, ma sono cresciuto del tutto. Anche se adesso che è tutto diverso, non resto in paranoia, perché voi fate parte della mia storia. Dovrei immaginare tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho passato, in un passato distratto. Ma adesso, adesso è tutto diverso, è tutto diverso, è tutto diverso. Dovrei immaginare tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho passato, in un passato distratto. Ma adesso, adesso è tutto diverso, è tutto diverso, è tutto diverso. Poi grazie al gatto capisco il mondo come è fatto, iniziano i primi freestyle, ne esco matto. Cazzo, faccio beat, produco MC, sembra il paradiso qui mentre mi sposto dalla mia city. Conosco il palazzetto, gente da tutto rispetto, altro che casa, ora è qua il mio tetto. Non aspetto in dream web, gente che ora sente zio Fer, capisce perché mi sfogo grazie al rap, perché è la mia anima, per questo non parlo di pistola carica o figa. Io parlo della mia vita. Questa è la mia vita scolpita da un artista fatto in pietra, sporcata dalla mia matita. Prova ad immedesimarti o capire ciò che voglio dirti, che da ste parti o parti o resti come gli altri. Io faccio il mio con lo stile più spesso, vedi adesso com'è tutto diverso. Dovrei immaginare tutto quello che ho fatto, tutto quello che ho passato in un passato distratto. Ma adesso, adesso è tutto diverso.